Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Andai un mattino a Canelli, lungo la ferrata, per la strada che ai tempi della mora avevo fatto tante volte. Passai sotto il salto, passai sotto il nido, vidi la mora coi tigli che toccavano il tetto, il terrazzo delle ragazze, la vetrata e l'ala bassa dei portici dove stavamo noi altri. Sentii voci che non conoscevo, tirai via. A Canelli entrai per un lungo viale che ai miei tempi non c'era, ma sentii subito l'odore, quella punta di vinacce di Arietta di Belbo e di Vermut. Le stradette erano le stesse, con quei fiori alle finestre e le facce, i fotografi, le palazzine. Dove c'era più movimento era in piazza, un nuovo bar, una stazione di benzina, un va e vieni di motociclette nel polverone. Ma il grosso platano era là. Si capiva che i soldi correvano sempre. Passai la mattinata in banca e alla posta. Una piccola città, chissà intorno quante altre ville e palazzotti sulle colline. Da ragazzo non mi ero sbagliato. Nel mondo i nomi di Canelli contavano. Di qui si apriva una finestra spaziosa. Dal ponte di Belbo guardai la valle, le colline basse verso Nizza. Niente era cambiato. Solo l'altro anno c'era venuto col carro un ragazzotto a vender l'uva insieme al padre. Chissà se anche per Cinto Canelli sarebbe stata la porta del mondo. Ma accorsi allora che tutto era cambiato. Canelli mi piaceva per se stessa, come la valle e le colline e le rive che ci sbucavano. Mi piaceva perché qui tutto finiva, perché era l'ultimo paese dove le stagioni, non gli anni, s'avvicendano. Gli industriali di Canelli potevano fare tutti gli spumanti che volevano, impiantare uffici, macchine, vagoni, depositi, era un lavoro che facevo anch'io. Di qui partiva la strada che passava per Genova e portava chissà dove. L'avevo percorsa cominciando da Gaminella. Se mi fossi ritrovato ragazzo, l'avrei percorso un'altra volta. Ebbene, e con questo? Nuto, che non se n'era mai andato veramente, voleva ancora capire il mondo, cambiare le cose, rompere le stagioni. O forse no, credeva sempre nella luna. Ma io, che non credevo nella luna, sapevo che tutto sommato soltanto le stagioni contano. E le stagioni sono quelle che ti hanno fatto le ossa, che hai mangiato quando eri ragazzo. Canelli è tutto il mondo. Canelli è la valle del Belbo. E sulle colline il tempo non passa. Tornai verso sera sullo stradone lungo la ferrata. Passai per il viale, passai sotto il nido, passai la mora. Alla casa del salto trovai nudo in grembiale che piallava e fischiettava, scuro in faccia. Cosa c'è? C'era che uno, scassando un incolto, aveva trovato altri due morti sui pianori di Gaminella, due spie repubblichine, testa schiacciata e senza scarpe. Erano corsi su il dottore e il pretore col sindaco per riconoscerli. Ma dopo 3 anni che cosa si poteva riconoscere? Dovevano essere repubblichini perché i partigiani morivano a valle, fucilati sulle piazze e impiccati ai balconi o li mandavano in Germania. «Che c'è da pigliarsela?» dissi. «Si sa», Mannuto rimuginava, fischiettando scuro. Diversi anni prima, qui da noi c'era già la guerra, avevo passato una notte che ogni volta che cammino lungo la ferrata mi torna in mente. Fiutavo già quello che poi successe, la guerra, l'internamento, il sequestro, e cercavo di vendere la baracca e trasferirmi nel Messico. Era il confine più vicino e avevo visto a Fresno abbastanza messicani miserabili per sapere dove andavo. Poi l'idea mi passò perché delle mie cassette di liquori i messicani non avrebbero saputo che farsene. E venne la guerra. Mi lasciai sorprendere. Ero stufo di prevedere, di correre e ricominciare l'indomani. Mi toccò poi ricominciare a Genova l'altro anno. Fatto sta che lo sapevo che non sarebbe durata, e la voglia di fare, di lavorare, di espormi mi moriva tra le mani. Quella vita e quella gente a cui ero avvezzo da 10 anni tornava a farmi paura e irritarmi. Andavo in giro in camioncino sulle strade statali. Arrivai fino al deserto, fino a Yuma, fino ai boschi di piante grasse. Ma aveva preso la smania di vedere qualcos'altro che non fossero la valle di San Joaquin o le solite facce. Sapevo già che finita la guerra avrei passato il mare per forza e la vita che facevo era brutta e provvisoria. Poi smisi anche di fare puntate su quella strada del sud. Era un paese troppo grande, non sarei mai arrivato in nessun posto. Non ero più quel giovanotto che con la squadra ferrovieri in 8 mesi ero arrivato in California. Molti paesi vuol dire nessuno. Mm-hmm. quella sera mi si impannò il camioncino in aperta campagna. Avevo calcolato di arrivare alla stazione 37 col buio e dormirci. Faceva freddo, un freddo secco e polveroso, e la campagna era vuota. Campagna è dir troppo. A perdita d'occhio una distesa grigia di sabbia spinosa e monticelli che non erano colline e i pali della ferrata. Pasticciai intorno al motore. Niente da fare. Non avevo bobine di ricambio. Allora cominciai a spaventarmi. In tutto il giorno non avevo incrociato che due macchine. Andavano alla costa. Nel mio senso, nessuna. Non ero sulla strada statale. Avevo voluto attraversare la contea. Mi dissi, aspetto. Passerà qualcuno. Nessuno passò fino all'indomani. Fortuna che avevo qualche coperta per avvolgermi. E domani? Dicevo. Ebbi il tempo di studiare tutti i sassi della massicciata, le traversine, i fiocchi di un cardo secco, i tronchi grassi di due cacti nella conca sotto la strada. I sassi della massicciata avevano quel colore bruciato dal treno che hanno in tutto il mondo. Un venticello scricchiolava sulla strada. Mi portava un odore di sale. Faceva freddo come d'inverno. Il sole era già sotto. La pianura spariva. Nelle tane di quella pianura sapevo che correvano lucertole velenose e mille piedi. Ci regnava il serpente. Cominciarono gli urli dei cani selvatici. Non erano loro il pericolo, ma mi fecero pensare che mi trovavo in fondo all'America, in mezzo a un deserto, lontano 3 ore di macchina dalla stazione più vicina. E veniva notte. L'unico segno di civiltà lo davano la ferrata e i fili dei pali, almeno fosse passato il treno. Già varie volte mi ero addossato a un palo telegrafico e avevo ascoltato il ronzio della corrente come si fa da ragazzi. Quella corrente veniva dal nord e andava alla costa. Mi rimisi a studiare la carta. I cani continuavano a urlare. In quel mare grigio che era la pianura, una voce che rompeva l'aria come il canto del gallo, metteva freddo e disgusto. Fortuna che m'ero portata la bottiglia del whisky e fumavo per calmarmi. Quando fu buio, proprio buio, accesi il cruscotto. I fari non osavo accenderli. Almeno passasse un treno. Mi venivano in mente tante cose che si raccontano. Storie di gente che s'era messa su queste strade quando ancora le strade non c'erano e li avevano ritrovati in una conca distesi, ossa e vestiti, nient'altro. I banditi, la sete, l'insolazione, i serpenti. Qui era facile capacitarsi che ci fosse stata un'epoca in cui la gente si ammazzava, in cui nessuno toccava terra se non per restarci. Quel filo sottile della ferrata e della strada era tutto il lavoro che ci avevano messo. Lasciare la strada, inoltrarsi nelle conche, nei cacti, sotto le stelle, era possibile? Lo starnuto di un cane, più vicino, e un rotolio di pietre mi fece saltare. Spensi il cruscotto. Lo riaccesi quasi subito. Per passare la paura, mi ricordai che verso sera avevo superato un carretto di messicani, tirato da un mulo, carico che sporgeva di fagotti, di balle di roba, di casseruole e di facce. Doveva essere una famiglia che andava a fare la stagione a San Bernardino o su di là. Avevo visto i piedi magri dei bambini e gli zoccoli del mulo strisciare sulla strada. Quei calzonacci bianco sporco sventolavano. Il mulo sporgeva il collo, tirava. Passandoli avevo pensato che quei tapini avrebbero fatto tappa in una conca. Alla stazione 37 quella sera non ci arrivavano certo. Anche questi, pensai, dove ce l'hanno casa loro? Possibile nascere e vivere in un paese come questo? Eppure si adattavano, andavano a cercare le stagioni dove la terra ne dava e facevano una vita che non gli lasciava pace, metà dell'anno nelle cave, metà sulle campagne. Questi non avevano avuto bisogno di passare per l'ospedale di Alessandria. Il mondo era venuto a stanarli da casa con la fame, con la ferrata, con le loro rivoluzioni e i petroli. E adesso andavano e venivano rotolando dietro al mulo. Fortunati che avevano un mulo. Ce n'era di quelli che partivano scalzi, senza nemmeno la donna. Scesi dalla cabina del camioncino e battei i piedi sulla strada per scaldarmeli. La pianura era smorta, macchiata di ombre vaghe, e nella notte la strada si vedeva appena. Il vento scricchiolava sempre agghiacciato sulla sabbia, e adesso i cani tacevano. Si sentivano sospiri, ombre di voci. Avevo bevuto abbastanza da non prendermela più. Fiutavo quell'odore di erba secca e di vento salato e pensavo alle colline di Fresno. Poi venne il treno. Cominciò che pareva un cavallo col carretto su dei ciottoli e già si intravedeva il fanale. Lì per lì avevo sperato che fosse una macchina o quel carretto dei messicani. Poi riempì tutta la pianura di baccano e faceva faville. Chissà cosa ne dicono i serpenti e gli scorpioni, pensavo. Mi piombò addosso sulla strada, illuminandomi dai finestrini l'automobile, i cacti, una bestiola spaventata che scappò a saltelli. E filava sbatacchiando, risucchiando l'aria, schiaffeggiandomi. L'avevo tanto aspettato, ma quando il buio ricadde e la sabbia tornò a scricchiolare, mi dicevo che nemmeno in un deserto questa gente ti lasciano in pace. Se domani avessi dovuto scapparmene, nascondermi per non farmi internare, mi sentivo già addosso la mano del poliziotto come l'urto del treno. Era questa l'America. Ritornai nella cabina, mi feci su in una coperta e cercavo di sonnecchiare come fossi sull'angolo della strada Bellavista. Adesso rimuginavo che con tanto che i californiani erano in gamba, quei quattro messicani cenciosi facevano una cosa che nessuno di loro avrebbe saputo. accamparsi e dormire in quel deserto, donne e bambini, in quel deserto che era casa loro, dove magari coi serpenti si intendevano. «Bisogna che ci vada in Messico», dicevo. «Scommetto che è il paese che fa per me». Più avanti nella notte una grossa cagnara mi svegliò di soprassalto. Sembrava che tutta la pianura fosse un campo di battaglia o un cortile. C'era una luce rossastra. Scesi fuori intirizzito e scassato. Fra le nuvole basse era spuntata una fetta di luna che pareva una ferita di coltello e insanguinava la pianura. Rimasi a guardarla per un pezzo. Mi fece davvero spavento. Nuto non si era sbagliato. Quei due morti di Gaminella furono un guaio. Cominciarono il dottore, il cassiere, i tre o quattro giovanotti sportivi che pigliavano il vermut al bar a parlare scandalizzati, a chiedersi quanti poveri italiani che avevano fatto il loro dovere fossero stati assassinati barbaramente dai rossi. Perché, dicevano a bassa voce in piazza, sono i rossi che sparano nella nuca senza processo. Poi passò la maestra, una donnetta con gli occhiali, che era sorella del segretario e padrona di vigne, e si mise a gridare che era disposta ad andarci lei, nelle rive, a cercare altri morti, tutti i morti, a dissotterrare con la zappa tanti poveri ragazzi, se questo fosse bastato per far chiudere in galera, magari per far impiccare qualche carogna comunista, quel Valerio, quel Paietta, quel segretario di Canelli. Ci fu uno che disse: «È difficile accusare i comunisti, qui le bande erano autonome». «Cosa importa?» disse un altro. «Non ti ricordi quello zoppo dalla sciarpa che requisiva le coperte? E quando è bruciato il deposito? Che autonomi, c'era di tutto. Ti ricordi il tedesco?» «Che fossero autonomi», strillò il figlio della madama della villa, «non vuol dire. Tutti i partigiani erano degli assassini». «Per me», disse il dottore guardandoci adagio, «la colpa non è stata di questo o di quell'individuo. Era tutta una situazione di guerriglia, di illegalità, di sangue. Probabilmente questi due hanno fatto davvero la spia. Ma», riprese scandendo la voce sulla discussione che ricominciava, «chi ha formato le prime bande? Chi ha voluto la guerra civile? Chi provocava i tedeschi e quegli altri? I comunisti, sempre loro. Sono loro i responsabili, sono loro gli assassini. È un onore che noi italiani gli lasciamo volentieri». La conclusione piacque a tutti. Allora dissi che non ero d'accordo. Mi chiesero come. «In quell'anno», dissi, «ero ancora in America». Silenzio. «E in America facevo l'internato». Silenzio. «In America che in America», dissi, «i giornali hanno stampato un proclama del re e di Badoglio che ordinava agli italiani di darsi alla macchia, di fare la guerriglia, di aggredire i tedeschi e i fascisti alle spalle». Sorrisetti. Più nessuno se lo ricordava. Ricominciarono a discutere. Thank you.